voglio bene. Ti voglio bene. Ma adesso basta. Me ne andrò, me ne andrò, me ne andrò con la prima che incontro. Scorderò, scorderò le tue labbra baciate da un altro. Che ne sa dell'amor, non parlare, gli occhi tuoi stan dicendo per te la verità. T'amerò, t'amerò fino all'ultimo giorno del mondo. Piangerò, piangerò, soffrirò ricordando i tuoi baci. Forse un dì perdonar ti saprò, ora no. E perciò me ne andrò senza di te. Me ne andrò, me ne andrò, me ne andrò con la prima che incontro. Scorderò, scorderò le tue labbra baciate da un altro. Che ne sa dell'amore, non parlare, gli occhi tuoi stan dicendo per te la verità. T'amerò, t'amerò fino all'ultimo giorno del mondo. Piangerò, piangerò, soffrirò ricordando i tuoi baci. Forse un dì perdonar ti saprò, ora no. E perciò me ne andrò senza di te. E perciò me ne andrò senza di te.